di sicuro è un risultato straordinario e all'ultima annata che era stata condizionata dalla pandemia, insomma, quindi in parte dalla contrazione del business petrolifero. In quel caso Eni ha sostanzialmente ridotto le perdite sostenendo lo stesso il dividendo per gli azionisti, ma in pratica diciamo che insomma era stata un'annata abbastanza problematica. In questo caso è abbastanza palese, direi, che l'aumento significativo del prezzo sia del petrolio che del gas sui mercati internazionali ha portato, diciamo, a un risultato del genere. È interessante vedere come addirittura la produzione media giornaliera di Eni nello scorso anno sia lievemente inferiore a quella dell'anno precedente. Questo quindi significa che chiaramente, insomma, il prezzo della materia prima venduta è quello che è molto più alto e quello che ha consentito di ottenere questi risultati. Parliamo di un più 53% degli utili, pari a 3,8 miliardi di euro, ma quel che è peggio è che questi soldi vengono reinvestiti nelle fossili. Sì, l'Eni presenterà il suo, diciamo, la revisione, diciamo, annuale del piano industriale per i prossimi 4 anni. Insomma, non ci si aspetta grosse novità se ci basiamo appunto su quanto è già stato dichiarato e operazionalizzato lo scorso anno. Per quanto riguarda il quadrimestre 2021-2024, l'Eni mirava ad aumentare anche significativamente, direi, la produzione di petrolio e gas, un obiettivo di raggiungere un picco di produzione suo, superando il tetto dei 2 milioni di barili al giorno, quindi raggiungendo 2,1 nel 2025. Quindi è una società in piena espansione petrolifera, diciamo più dell'80% dei suoi investimenti riguardano ancora, diciamo, l'economia del petrolio e del gas, quindi dei combustibili fossili. Quindi è chiaro che la parte anche di extra utile, insomma, dovuto al prezzo elevato di petrolio e gas che oggi viene incamerata alla società e non data come dividendi, sarà reinvestita in gran parte nei combustibili fossili. Parlando di Italia, allargherei un po' il discorso appunto alla questione della sovranità energetica, la questione appunto dell'autonomia del nostro paese. Sappiamo che il nostro paese è particolarmente esposto in questa crisi energetica perché dipende molto dall'estero come appunto fonti energetiche. La strategia di Eni è utile al nostro paese? Ma la strategia di Eni è una strategia, diciamo, che si basa su un solco più che decennale, cioè che era quella di godere sostanzialmente e costruire una relazione privilegiata non solo nei confronti della Russia, ma nei confronti, diciamo, di gran parte dei bacini del Mediterraneo, nonostante retti da dittature oppure autocrazie, e puntando sostanzialmente a sviluppare un business strategico in alcuni paesi che erano i pochi e principali fornitori dell'Italia, soprattutto sul versante del gas. Peraltro negli ultimi 2 decenni c'è stata una trasformazione del mercato del gas, quindi si è passati da quelli che erano accordi di lungo termine, classica importazione, insomma, a prezzo fisso di gas per 20 anni dalla Russia, con quella che è una logica di mercato. In questa logica di mercato costruita a livello europeo, è chiaro che Eni ha un ruolo dominante per quanto riguarda il cosiddetto hub italiano, e quindi si è adattata all'inizio un po' controvoglia, in realtà poi in maniera molto più attiva, diventando un player ovviamente dominante. Quindi c'è tutto un discorso collegato di stoccaggio, alle riserve strategiche, ovviamente è un discorso di mercato europeo più ampio che presenta varie complessità, ma è indubbio che Eni ha, per quanto riguarda l'Europa del Sud, ripeto, il bacino del Mediterraneo ha un ruolo assolutamente centrale. Io ricorderei che Eni è il principale produttore, tra l'altro, di petrolio a livello mondiale in Africa, quindi insomma rendiamoci conto dell'importanza della società italiana. Ma in tutto questo la transizione ecologica, energetica non c'è? La transizione, come viene dichiarata da loro, arriverà al 2040, al 2050, ma io penso che questa decade, appunto leggendo la stessa strategia del gruppo Eni, è chiaramente una decade ancora di economia basata sui combustibili fossili, sull'espansione di questo è l'aspetto più preoccupante, nel senso che qui stiamo parlando di sviluppare grossissimi nuovi giacimenti, come penso al gas in Mozambico, penso al gas dell'Egitto, che una volta che partono ovviamente non è che si fermano in nome della lotta al clima, ma anche perché ci sono investimenti che sono davvero di decine di miliardi di dollari. Quindi che cosa succede? Noi sostanzialmente vincoliamo per i prossimi decenni un certo sviluppo energetico al gas, che contrariamente a quello che viene detto non è assolutamente un combustibile di transizione, peraltro va a perpetuare non solo a danni dell'ambiente e del clima, ma anche dei diritti umani, delle relazioni politiche internazionali, e ovviamente un certo status quo negativo che vediamo in questi giorni.